studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! Ebbene, ci ritroviamo come ogni giovedì, all'Onda in Onda. Insomma, come ogni settimana vi teniamo compagnia dalle 18:30 alle 20:30. Ma prima ovviamente diamo subito i contatti. Panzica. Allora, ci trovate su al sito www.facebook.com/l'onda in onda con la L, mentre su twitter.com/onda in onda senza la L. Esatto. Non chiedete il perché ovviamente la gente poi confondono le due cose, non ci troverà mai. Esatto. Oppure ci potete anche mandare un SMS al 380 7690 204, o telefonarci e romperci le palle allo 091 7845 230. Su internet ci trovate al sito www.radiopanorama.eu e sull'FM 106.4, 104.1 e 100.7. Perfetto, non possiamo però ovviamente non anticipare che in questa puntata avremo come ospiti di intervista Cisco, ex Modena City Rams. Ma che ora sono riuniti? Sì, chiederemo. Quanto pare, chiederemo proprio a lui, si sono chiederemo riuniti. Numi. Poi il management del dolore post-operatorio. E poi bello, io studio medicina, quindi sono felice. Sì, ma ti assicuro che sono veramente un gruppo molto simpatico e un gruppo molto preparato, soprattutto nel comporre questa musica cantautoratesca. E poi alla fine il Rosso Dalmata. Sui quali mi sono informato. Esatto, rimanete con noi e partiamo subito con la nostra sigla. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, iodo, ciappiamo, se va, chiamare. 1, 2, 3, 4. Noi siamo i giovani. Ed eccoci qui quindi con l'Onda in Onda. Io ancora non ho avuto l'onore di sentire la sigla. Certo, perché tu arrivi sempre in ritardo. Vabbè, dai, quindi... per tre minuti, giusto, non te la puoi prendere così. Vabbè, ciao Brum. Ciao. Ma che cos'è? Perché lui fa, ti ricordi, fa... Ciao. No. Chi abbiamo intervistato la settimana scorsa, non era proprio attivissimo. Sì. Ciao. Ma perché? Però, io spero che lui non ci ascolti, perché credo che ci sarebbero gli estremi almeno per mandarci a quel paese, almeno. Ma io sto benissimo. Sono felicissimo. Sicuro? È molto sexy. Bene. Però è anche sexy. Sì, è sexy. Magari la tua ragazza la prenderà. Mi fa paura, Andrea, quando mi dice con la voce sexy, mi fa paura. Lo so. Sì. Senti, io direi di partire subito. Con una bella notizia, vedo che è una di quelle che segnano la storia del prima paese. Prima di partire le nostre interviste, ovviamente, subito dopo, ricordiamolo, ci sarà con noi Cisco per parlare del progetto Iper, Indipendenti per l'Emilia Romagna e Lombardia. Del quale già abbiamo parlato. Del quale già abbiamo parlato con Piotta. Con chi abbiamo parlato anche? Un altro componente, sì, dai. No. Teatro degli orrori è stato prima. Ah, allora scusate, solo con Piotta. Sì, però sì, noi ne abbiamo parlato tanto. Un conduttore l'abbiamo... con una memoria. No, aspetta, però l'abbiamo pubblicizzato anche quando non abbiamo. C'è molto prima. Insomma, intanto vi invitiamo a scaricare da iTunes al modico prezzo di 99 centesimi. Esatto. Il singolo Ancora in Piedi, appunto, di Iper. I soldi saranno devoluti proprio per il terremoto in Emilia Romagna e Lombardia. Ma tra l'altro, diamo un piccolo anticipo: la prossima settimana. Attenzione. La prossima settimana avremo due ospiti. ospiti, due ospiti diciamo abbastanza conosciuti. Sì, abbastanza conosciuti, diciamo un po' dalla notte dei tempi. Anche se i Beatles diciamo di essere famosi, di un, più famosi più di uno, famosi di loro, di loro due, però loro si sono riuniti in missione per conto di uno solo, sì. Quindi la citazione è abbastanza ovvia, sì. Che è quella dei Blues Brothers, siamo in missione per conto di Dio. Noi abbiamo l'occasione di avere, credo proprio loro o qualche loro rappresentante, se Dio manderà qualche arcangelo, il diavolo, qualche demone, proprio Dio e il diavolo. Quindi. Avremo Dio e Dio e il diavolo, quindi magari però non lo so, vogliamo anticipare un po', qualcuno non sa chi sono Dio e il diavolo. Beh, Dio e il diavolo sì, sono due figure mitologiche, mitiche, vere, false. Io non parlo di Twitter. Di Twitter, sì, esatto, allora diciamolo. Tra l'altro diamo una notizia che Twitter al momento è down, cioè nel senso è non potete accedere a Twitter perché sì, è stato bombardato da Dio e il diavolo. Probabilmente proprio prima di cominciare. Non scriveteci nel nostro account perché tanto Twitter è giù in questo momento. Beh, posso andare su Facebook. Però Twitter e il diavolo, Twitter e il diavolo, Dio e il diavolo sono due personaggi simpaticissimi di Twitter che hanno fatto questi loro account e danno notizie sui vari avvenimenti del mondo, visto che lo governano, insomma, uno più uno meno, sì, sì, nell'eterna lotta, e quindi hanno, insomma, hanno dato, si danno battaglia a colpi di tweet e hanno fatto un libro in cui hanno raccolto i loro tweet e lo vendono per la causa del terremoto anche in Emilia Romagna. Esatto, anche loro, come per la canzone che diciamo poc'anzi, scaricare da iTunes, raccoglieranno i fondi che andranno direttamente ai paesi terremotati. Va bene, allora io direi di dare, no, non diamo subito la notizia, ma ascoltiamoci subito un pezzo perché abbiamo notizia alla regia che Cisco ci sta raggiungendo al telefono e quindi attenzione, rimanete con noi. Lo lancio io, ci ascoltiamo Jimi Hendrix Experience con All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Ebbene, come vi abbiamo annunciato all'inizio di questa puntata e con All Along the Watchtower in sottofondo, noi diamo il benvenuto a Cisco. Ciao Cisco! Ciao! Ciao a tutti, buon pomeriggio! Buon pomeriggio, buon pomeriggio a te! Ciao, come stai intanto? Domanda di rito. Come sto? Eh sì! Bene. Ah, bene, bene! Sto bene, sto ma, bene! Ma dove stai? Ci hanno detto che sei proprio impegnato! Sì, siamo praticamente sulla riva del Po, del grande Po. Il grande fiume Po, per un concerto questa sera di beneficenza per il terremoto, per le zone terremotate qui della zona, qui a Reggiano, e e sarà un grande, una grande festa, un grande concerto. Ci sarò io, ci sarà Davide Van de Sfrossi, Rio e, altri, e tanti altri gruppi. Ah, e noi proprio volevamo parlare di questo progetto I, perché continua a prendere piede, quindi l'Indipendenti per Emilia Romagna e Lombardia, col singolo Ancora in piedi, sta avendo un grande successo. Quanto avete raccolto, Cisco, se ne sai, se sai qualche dato? No, questo non lo so, non, mi, questo non è l'unico. Non parliamo, nel senso, non parliamo di roba economica, dai. No, no, no, no, ma vabbè. No, no, no, no, no, no, sì, sì, lo sapessi, ve lo dico. Ah, beh, cioè, è roba economica di beneficenza, non è sicuramente un male, certo. No, no, è che diciamo il brano è partito da poco e so che sta funzionando bene, il download sta girando abbastanza bene, su YouTube c'è il brano, c'è il video da vedere, quindi io invito tutti gli ascoltatori a vedere il video e a scaricarsi il brano, costa 99 centesimi, quindi direi che non, nessuno va in rovina, tutto ricavato va per le popolazioni colpite, per progetti per i territori colpiti dal terremoto, nessuno di noi ha consigliato un rimborso spese, nessuno di noi ha guadagnato, lucrato nulla su questa operazione. Guarda Cisco, noi dell'Onda in Onda ci vantiamo che da almeno 3 o 4 settimane, quindi 3-4 puntate, perché andiamo in onda una volta a settimana, facciamo un'ottima propaganda e pubblicità di questo pezzo, invitiamo tutti gli ascoltatori a scaricarlo perché è per un'ottima causa, non buona, quindi 99 centesimi sono pochi, ma somma somma tante persone che possono scaricarlo danno ottimi risultati insieme. Abbiamo intervistato la settimana scorsa Piote, ci parlava proprio di questo progetto, ma volevamo sapere una tua impressione al di là del progetto in sé, a livello musicale, vi ha fatto riunire anche con il vecchio gruppo, Cisco? Guarda, sì, tutto quello che è successo attorno al terremoto e alle iniziative di beneficenza legate al terremoto in qualche modo hanno sconvolto la mia vita. E messo in discussione tutto quello che è il mio percorso. In realtà poi devo ringraziare davvero il Piotr, Tommaso, perché è stata una sua idea quella di coinvolgermi in prima persona su Ancora in piedi, il brano con cui praticamente abbiamo lanciato questa operazione. Lui si è occupato di tutta l'organizzazione. Io in quel periodo, quando parlavamo di fare questa cosa, dormivo in tenda, perché io vivo nelle zone terremotate. La mia casa per fortuna non ha avuto danni, però per una settimana io ho vissuto in tenda con la mia famiglia e i bambini, proprio per la paura, perché continuavano le scosse, continuavano, certo, non smettevano più, ed era veramente tragico. Vi posso garantire, a distanza di 5 km da me c'è la devastazione. Mamma. E quindi io ringrazio davvero Tommaso per avermi coinvolto, perché in qualche modo per me è stato terapeutico, è stato uscire da un incubo che stavo vivendo e che non, di cui non vedevo fine, e ributtarmi nel mio lavoro, quello che è scrivere, quello che è cantare e fare musica. E quindi davvero colgo sempre l'occasione per ringraziare il Piotta, domani sera lo rivedrò perché suona a Roma col mio gruppo e lo inviterò sul palco a fare un paio di pezzi insieme. Ah, fantastico, e dove siete? Così se c'è qualche ascoltatore che si trova da quelle parti può venirvi a vedere. Saremo alla festa del PD alle Terme di Caracalla, vicino al Circo Massimo, domani sera. Disco con la mia band e poi con un po' di ospiti anche. Perfetto. Ma la tua band al momento sono in Modena o è la tua band da solista? La sua band. No, la mia band da solista, il mio progetto solista. Io ho fatto delle cose insieme in Modena, ho rifatto anche un paio di serate con loro, proprio per il terremoto, compresa quella serata famosa del 25 giugno allo stadio di Bologna. Incredibile, quella quando si è spuntati sul palco, perdonami, ma la lacrimuccia è scesa, soprattutto perché avete seguito i 100 passi che insomma noi adoriamo, a maggior ragione che siamo in questa terra meravigliosa e terribile allo stesso tempo che la Sicilia. È stato bellissimo per rispuntare insieme. Io confidavo molto nel fare i 100 passi in quell'occasione e la scelta è stata giusta, secondo me. Sì. Però io ripeto, Torino, le due strade sono separate, sono divise, loro vanno avanti con le loro cose e io vado avanti con i miei progetti, rifacendo molto spesso cose del mio passato, tra cui i 100 passi, perché è una canzone che ho scritto e a cui sono troppo legato. Bene, allora Cisco, noi sappiamo che stai lavorando, sei in soundcheck, quindi ti lasciamo lavorare e ti ringraziamo tantissimo per questa intervista. Ovviamente ricordiamo tutti quanti di comprare Ancora in piedi, 99 centesimi su iTunes, e noi ve lo facciamo ascoltare. Ringraziamo Cisco, grazie per questa intervista e buon concerto. In bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, grazie e a presto nella vostra splendida terra. Un saluto. Grazie, ciao. Ciao. Tu puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti, scrivere orizzonti nuovi e superarli, Nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Tremano le case, trema tutto il letto, tremano i pensieri e la vita al suo cospetto. Crollano i castelli antichi degli estensi, crollano i nostri moderni appartamenti. E proprio adesso io mi chiedo il perché, di fronte a così tante cose a cui dire addio, mi sento più forte di prima, mi sento più vicino a te. Te che mi cerchi, te che mi chiami in questa nebbia, banchi stanchi noi, aspettando si spalanchino i ricordi, e poi davanti alla tristezza, con l'asfalto che si spezza, il tuo respiro vivo è come il vento e mi accarezza il viso. Puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi e superati, nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Tu puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi e superati, nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo siamo in diretta, sono le 9.06, ci sono state due forti scosse di terremoto. Resto in piedi anche quando tutto qui va storto, resto in piedi anche se cascasse il mondo, resto in piedi perché poi che c'è da fare se non mettersi in cammino per ricominciare. Cingi sta mano, insieme ne rialziamo. In fondo ancora non è tutto perso, sai se ti dà tenimo e torna muoi di là decimo. Tremano i palazzi e tremano le città, ciao! Poi tremano i diritti, trema la dignità. Get up, get up, you stand up, stand up. Noi stan solo, solidarietà. Tu puoi respirare l'alba e puoi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi superati, nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Tu puoi respirare l'alba e poi guardare avanti e scrivere orizzonti nuovi e superati, nonostante tutto siamo ancora in piedi, anche quando il cielo viene giù. Viene giù come fosse una lacrima. Reggono gli occhi finché torni dove. Bene, rientriamo subito in diretta e direi che dopo questa bellissima canzone possiamo dare una notizia un po' più allegra. Sì, cioè, sì, allegra per chi la sente. Io vorrei farla dire alla mia amica, un attimo che la chiamo. Sì. Allora. Allora. No, quello era mio marito. Io vorrei leggere queste notizie perché ci tengo veramente tanto. Sorprende il suo uomo con l'amante. Prima vince di stare al gioco e poi lei vira. Quindi lui arriva a casa all'improvviso, scopre il suo uomo con un'altra donna in atteggiamenti inequivocabili. A un certo punto, con prendezza estrema, finge di prestarsi a un gioco erotico a tre. Io pure l'ho fatto, mamma mia. Poi all'improvviso, con un morso a dente il pene del suo compagno, gli provoca profonde ferite per le quali sono stati necessari 15 punti di sutura. Signora Nene, ma lei che mi pensa? Ma lei quanto piglia? No, guardi, io non sono una ragazza di poco buono, che non c'entra niente, però era bello unire di poco buono con una ragazza così. Comunque, la notizia è di Civitanova Alive, quelle che si mangiano. Io non ci credo. Lei non ci crede? Ma cosa? Va bene, dopo questo casseggio possiamo passare la linea alla pubblicità. Sì, è successo di tutto, veramente. Ci vediamo dopo. Spot.

L'estate alle porte il cane pensa, ma il mio padrone parte, e se parte mi porta, e se mi porta non è che scendo a fa pipì e lui riparte. Se vai da qualche parte, porto anche lui, perché il tuo cane è una parte di te, te lo chiedo io, Giorgio Panariello, e te lo chiede anche la Lega del Cane, perché siamo dalla loro parte. Un soggiorno in penisola sorrentina, nel golfo di Napoli, con tanta buona cucina. Sei all'Equa Hotel, a Vico Equense. Vuoi visitare Napoli, Capri e gli scavi di Pompei? Soggiorna all'Equa Hotel, in penisola sorrentina. Prenota su equahotel.it o telefona al numero 081 80 15 331. Equa Hotel, un sogno possibile. Benvenuti all'appuntamento con le notizie, in redazione Massimo Durante. La politica in apertura del nostro giornale. Il leader di Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, pensa ad un asse tra non allineati che raggruppi forze politiche come Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà, ma anche il Movimento 5 Stelle, al momento, ha osservato Di Pietro, messi ai margini da PD e PDL. La vera ragione per cui non trovano l'accordo sulla legge elettorale, ha aggiunto poi Di Pietro, è perché non sanno più quale può essere la lista che potrebbe ottenere la maggioranza dei voti. Ed ora l'economia. Lo scenario globale è ulteriormente peggiorato ed in Italia la diminuzione del PIL proseguirà. Lo ha reso noto il centro studi di Confindustria, che avverte: con la chiusura del secondo trimestre con gli indici negativi sono di fatto annullate le probabilità di rilancio nella seconda metà dell'anno. A dare respiro ai mercati sono arrivate intanto le parole del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Non è pensabile che un paese si stacchi dall'euro, ha detto, aggiungendo che la Banca Centrale Europea è pronta a tutto per salvare l'euro. Passiamo ora alla cronaca. L'allenatore della Juventus Antonio Conte è stato deferito per omessa denuncia dalla Procura federale della FIGC nell'ambito del calcio scommesse. I fatti si riferiscono a quando Conte era allenatore del Siena, deferite poi anche 13 società e 44 tesserati. Sono stati estratti vivi dalle macerie i due anziani rimasti coinvolti nel crollo della palazzina nel comune di Villafrati, in provincia di Palermo. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Per i due coniugi solo delle lievi ferite. L'uomo ha 97 anni. Ci spostiamo in Cina, dove è salito a 77 il numero dei morti dopo il nubifragio che si è abbattuto su Pechino la scorsa settimana, il più violento da 60 anni. Chiudiamo il nostro giornale con il meteo. Per la giornata di domani al nord si prevedono nubi pomeridiane sul settore alpino orientale e sull'Appennino emiliano, con associati rovesci di breve durata. Sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Al centro e sulla Sardegna nubi pomeridiane in prossimità della dorsale appenninica, con associate deboli precipitazioni. Sereno o poco nuvoloso altrove. Al sud e sulla Sicilia prevalenza di cielo sereno, salvo locali annuvolamenti sulle aree montuose. Temperature in generale aumento, più marcato sulla Sardegna, zone interne del centro e sulla pianura padana. Venti da deboli a moderati settentrionali al sud, deboli settentrionali al centro, deboli di direzione variabile al nord. Mari da mosso a molto mosso lo Ionio, il canale d'Otranto ed il basso Adriatico. Da poco mossi a mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, l'Adriatico centrale ed il settore est del Tirreno centro-meridionale. Poco mossi i restanti mari. Per il momento è tutto, appuntamento con le notizie, alla prossima edizione. Trust me. solo i cavalli ci troveranno stanotte. Questo è un testo scritto da Andrea Massaro, ma musicato dagli Sister Sisters. Esatto, l'ho scritto. Poi in radio c'è aria proprio di goliardia. Sì. No, l'ho scritto in un momento in cui ero, insomma, mi sentivo solo e abbandonato, no, e ho detto soltanto i cavalli potrebbero trovarci stanotte. Ma poi trovarci con chi è? No, mi sentivo solo abbandonato, ma il mio alter ego dentro di me, no, voleva i cavalli. Che poi penso dopo dica: solo i cavalli possono portarci indietro in quel mondo. Non so qual è il mondo. Quel mondo. Io credo che abbia a che fare con Cicciolina. Comunque te lo posso anche spiegare. Qual è quel mondo? Vabbè. Senti, vuoi non c'era il prossimo ospite? A sapere chi è, te lo direi con piacere. È lui che scalpita lì. E scalpita come i cavalli, diciamo. Come i cavalli. Quindi vogliamo... come solo i cavalli. Lui è un cavallo di razza, un cavallo di razza comunista. È uno degli ultimi portatori veri del baluardo, del vessillo del comunismo in Italia, in Europa e nel mondo. Lui, da quella piccola ma grande nel cuore roccaforte che è Regalcioffoli, in provincia di Rocca Palungba. Sì. Mi sono girato e ho visto nell'acquario un uomo immobile. Pensavo si fosse, gli fosse venuto un coccolone. Vabbè, comunque dicevo, hai interrotto il momento. Vabbè, da quella ridente località detta Regalcioffoli, in provincia di Rocca Palumba, lui afferma, insieme al collettivo Giancarlo Mattello, ogni volta si arrabbia che non lo ricordo, quindi al minimo mi deve dire grazie, porta avanti gli ideali del comunismo. È con piacere ed onore che vi presentiamo ancora una volta, ma più felici di quella scorsa, il grande, unico Fidelio Cusumano. Cusumano, aspetta. Buonasera, intanto mi chiamo Cusumano, non mi chiamo Cusumano. Ho confusa con i vini, mi scusi. No, guardi, lei veramente con i vini lei li ha bevuti tutti, esatto. Ovviamente si è confuso. No, sono contento che lei abbia ricordato che appartengo al collettivo Giancarlo Mattello, collettivo universitario di giovani comunisti a Palermo, no? Nell'altro scusi, stato. Non era Rocca Palumba. No, poi ci siamo spostati, stiamo aprendo nuove sedi. Poi dirò una cosa riguardo proprio al collettivo Giancarlo Mattello. Sì. No, ma volevo dire, lei dimentica che io vengo in questa radio e in tutte le altre radio aperte al comunismo in Italia e nel mondo, ovviamente comunismo internazionale anche su Venere, dove noi, sì ovviamente, lei si dimentica di dire che noi sportiamo questa pratica che è il cineforum, questa pratica che ci siamo inventati noi comunisti. Voi proprio. Sì, il cineforum. Cioè per stare tutti insieme in democrazia avete inventato questo. Questa volta noi presentiamo un nuovo film. Però colpo io di prima, scena, prima voglio dirle, proprio voglio dirle una cosa. Noi siamo facendo le elezioni del collettivo Giancarlo Mattello per eleggere il nuovo rappresentante del collettivo Giancarlo Mattello, quindi vi invito a votare all'università. Ma mi scusi, visto che voi amate tanto la democrazia, volevo chiederle, ad esempio, io e Brumma, il regista, sì, potremmo candidarci? Sì, certo, potete candidarvi a elezioni chiuse. E voi vi candidate e vedete chi di voi si fa eleggere così, sportivamente. Come? Non ci sono limiti di... No, tutti possono candidarsi. Che sia dopo le elezioni. Dopo le ma elezioni. Mi scusi, perché dopo? Se io voglio proprio diventare parte integrante di questo, come dire, della piramide di governo che c'è su Rocca Palumba, perché non posso? No, lei può ovviamente giocando. Ma perché se mi tessero? No, non si tessero. Noi facciamo ovviamente una procedura di tesseramento che è molto complesso. Questo è il nuovo comunismo, Bruma. Sì. Comunque voglio dire che i candidati sono ovviamente due, Fidelio e Cusumano. Che tra l'altro ha cambiato anche nome. Perché lui è Fidelio Cusumano contro il padrone Cusumano, dei vini. Esatto. Che vorrebbe il padrone dei vini. Che ovviamente pubblicità voi state facendo a questa catena di vini, sì. Dovete dirli tutti. Regaleali, cioè, Corvo, bravi, Duca di Salaparuta. Siete molto bravi voi della radio, molto quando bravi. Quando si tratta di alcol noi non sbagliamo. Esatto, mai. Bravi. Senta, allora io vorrei parlare di questo cineforum. Oggi vi invito tutti al comune di Regalcioffoli, ovviamente al comune grandissimo di questa nazione, certo. Che è Rocca Palungba. Ma si chiama cineforum perché è all'aperto? No, è un cineforum chiuso. Se no era cine dentro. Però la novità di questo cineforum è che noi commentiamo il film prima di averlo visto. Così la gente ovviamente già se ne va perché sa tutta la no, storia. No, ovviamente perché incuriosito dice: ma secondo voi cosa vedremo? E lo commentano le scene. Scene ancora non viste, quindi diventa una cosa molto più bella. Perché c'è una suspense. È un vero cineforum perché poi chi ci azzecca, no, vince la visione del film un'altra volta. Chi ci azzecca mi va a pensare a Tonino. No, Tonino, guardi, questo personaggio di destra noi non vogliamo nemmeno. È dell'Italia dei Valori, in teoria. Di destra. Ah, è di destra. Tutto quello che non è Rocca Palumba e Mattello è destra. Ovviamente anche Bersani quindi di destra. Anche Vendola, di Liberto. Anche Vendola, sì, Nicky, certo, Vendola. Certo, tutti quanti di destra. Allora, il film che vedremo oggi. Ecco, ci parli del film. Vediamo un attimo la trama, così possiamo commentarlo. Prendete carta e penna, così intanto preparate il block notes anche per il prossimo ospite, che anzi, fra due ospiti, credo. Ma guardi, a me non interessa. Francamente, volevo soltanto parlare. Chiedevo al regista. Fidelio, ma io chiedevo al regista, non chiedevo del mio film, del nostro film che proietteremo. Un film di un famoso regista, ovviamente, questa volta è deceduto. No, è vivo. È un vivo. Sì, è un film mai sviluppato, no, di Pasolini. Mai sviluppato? Sì, di Pasolini. Scusa, regista, hai una canzone suspense, cioè di Pasolini. Sì. E si chiama? Si chiama La Pineta. O Il Pineto, come molti lo chiamano, che ovviamente Occhio. Pasolini è ancora vivo. Ancora, quindi certo, è un'altra bugia dei fascisti. Certo, ovviamente è proprio Regalcioffoli. Sarà Regalcioffoli. Ma lei sa come si racconta che Pasolini sia stato ucciso? Sì, guardi, sono veramente versioni discordanti, questa strage, questo stragismo che c'era in questa nazione assurda che è l'Italia. Ma insomma, parliamo del film La Pineta o Il Pineto. È una guerra rappresentata proprio come la guerra del mondo contro il capitalismo. Che c'entra La Pineta, mi scusi? Perché si tirano pigne per tutto il film. Quindi in testa c'è questa lotta, un po' come la guerra dei bottoni. Sì, sì, si tirano pigne tutti quanti, sì, si tirano anche alla telecamera, finché la telecamera si rompe e il film finisce. Sì, esattamente. Pazzesco. Però l'audio continua ad andare avanti allo schermo nero. È cornuto chi si alza, come esatto, direbbe qualcuno. Si sta fino all'ultimo audio. Questo film dura veramente poco rispetto agli altri. Questo dura soltanto 3 ore e mezza. Però senza video quanto? Senza video 2 ore e mezza. A un'ora soltanto? Un'ora di lotta. Ma quindi è un corto, Fiderio? Sì, questo è un corto. Un corto l'ultimo veramente corto di Pasolini, La Pineta, detto anche Il Pineto. Il Pineto, sì. Quindi stasera dove possiamo venirlo a vedere? Allora, all'arena ovviamente chiusa di Regalcioffoli. Cioè chiusa che vuol dire? Che appena si entra poi la chiudete o non entra nessuno? No, è un'arena col tetto. Ah, è un'arena, perché l'avete chiamata arena e non Palasport? Ma guardi, si chiamava così, noi abbiamo lasciato sto nome, mi ha detto, ci dobbiamo occupare dei problemi del comunismo nel mondo, che cosa ce ne frega cambiare il nome all'arena, certo, no? Perché alla fine anche se a luglio piove chi se ne frega. Esatto. Va bene. Tra l'altro riscaldata con un bel caminetto dietro lo schermo. Il 26 luglio. Certo, ovviamente. Con commento iniziale, mi raccomando, quindi venite in Regalcioffoli a vedere un vero film comunista. Va bene, vi aspettiamo allora all'arena di Regalcioffoli tutti stasera. Noi ci speriamo un grande pezzo, Just Jack con Stars in the Eyes. Drugs and booze, maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall. And now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved, while the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And now the tabloids use your face to document your fall from grace. And then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from the dog and duck karaoke machine and Saturday night's drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from your private bedroom dance routines and Saturday night's drunken dreams. Why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you about to be famous. Behind a steel barrier, sequins and glitter. 5-inch heels still knee-deep in the litter. Each of them a bitter bullshitter. Wrapped up in the cloak of fake glamour, getting lost in the clamour. With footprints of fool's gold. And diamonds cross the grips on their one-off plimsolls. So little time for these one-off arseholes. Rigor mortis, Ken and Barbie dolls. A pair of big shades and a push-up bra. It's such a short gap between the gutter and stars. But you come a long way from the place that you started. So why'd you wanna go and get so downhearted? Welcome to the kingdom of the blagger. Uncut in your nose, Clico in your bladder. A whole lot happier, a whole lot sadder. Used to be satisfied, now you feel like Mick Jagger. Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger. Ebbene, rientriamo subito dopo Just Jack. Io mi confondo sempre quando pronuncio questo nome con Stars in Your Eyes. Va bene, come avevamo annunciato prima della pubblicità e prima della canzone, ovviamente, e nella nostra anteprima, visto che abbiamo fatto un grande sponsor, abbiamo con noi in diretta Frank del Rosso Dalmata. Benvenuto a Frank, ciao! Non ci sente, probabilmente. Pronto, Frank, ci sei? Pronto? Sentiamo solo dei rumori. Frank, ci sei? Eccoci. Ciao, come stai? Malissimo. Benissimo o malissimo? Non ho capito. Malissimo, col condizionatore puntato sul collo. Addirittura, che ti è successo? Nella bollente Bologna, non si può vivere senza aria condizionata. Vabbè, però dentro stai bene, nel senso. Sì, ho cominciato con una frase consumistica. In che senso hai cominciato con una frase consumistica? No, subito riferita a un oggetto. No? Ah, vabbè, ma figurati, non preoccuparti. Allora, parliamo un attimo del Rosso Dalmata, album di debutto, del vostro omonimo gruppo, o meglio, il vostro omonimo gruppo ha fatto l'album di debutto del Rosso Dalmata. Parliamoci un po' di questo album. Guarda, è stata una registrazione molto sofferta dell'estate bollente scorsa. Poi, insomma, siamo quattro personalità molto diverse, un ragazzo viene dalla Croazia, ci ha fatto conoscere tutto un indie rock diverso. Io invece sono più amante, insomma, dell'indie un po' più canonica, Strokes, Arctic Monkeys. Poi il nostro cantante invece è fiorentino, più amante dei Stone Roses, e poi abbiamo il nostro batterista di Lecce, invece più rockettaro italiano. Insomma, quindi quattro persone che sono da un po' ci siamo incontrati proprio per questo progetto. È più facile in Italia fare indie rock che fare musica con le major? Non ho capito, scusa. È più facile fare indie rock che fare musica con le major? Ma diciamo che è difficile tutto quando non hai un marchio collaudato. Diciamo che siamo in un'epoca che quasi quasi mi laureavo, sinceramente. E diciamo che l'artista è diventato proprio una? Un percorso, diciamo, che a differenza di gruppi, insomma, stranieri, in Italia non c'è mai una corrente di pensiero rock, sai? Quindi è un po' difficile, insomma, per i gruppi indie, soprattutto in questa fase che la promozione fondamentalmente la fai nel web. Sono spazi, diciamo, liberi per i gruppi che non hanno appunto una major. E c'è il live, insomma, che continua a essere la parte più interessante per i musicisti. Senti, allora, io ho ascoltato il vostro album, abbiamo in sottofondo Ho mal di Dandy, che già il titolo è veramente divertentissimo perché gioca su Dandy e i denti, ma ci sono molti pezzi dal titolo forte, come il primo che Mina si fa di chetamina. Ma sì. Come vi è venuto di fare un pezzo Mina? Guarda, si... diciamo tutto il materiale l'ho composto io, poi insomma il cantante ha dato un aiuto immenso. E no, è proprio il mio stile un po' Blu Vertigo, un po' incentrato sul titolo forte. Ne abbiamo tantissimi che abbiamo dovuto scartare, che non ci hanno fatto registrare. Avevamo anche la nostra versione di Azzurro, sì, che ovviamente Celentano gentilmente non ce l'ha fatta mettere. Insomma. Ah, avete avuto dissidi con Celentano? Sì, con lui in persona no, insomma, diciamo che vabbè, poi siamo entrati proprio nella politica italiana. Vabbè, tra l'altro è la più forte. Se vuoi glissare, glissa. No, ma guarda, sono così triste per la situazione indie italiana che vedo che altri gruppi prendono brani stranieri, non hanno problemi, insomma. proprio un'altra mentalità. Comunque niente, il, sì, ma guarda, sei il primo che ci dice così, perché noi abbiamo intervistato molti gruppi indie rock e erano abbastanza contenti di come si stavano integrando nell'ambiente indie rock italiano, che dicono che sta crescendo. Invece voi dite... Ma io, aspetta, non mi riferisco ai gruppi, di gruppi ottimi ce ne stanno un sacco, e tutto il contorno tra producer e modo di divulgazione che lascia desiderare. C'è uno squilibrio tra gruppi, cioè se tu ti siedi una mattina a Radio DJ, segnati le etichette e i brani che passano, vedrai che sono 4-5. Non fare pubblicità ad altre radio, cattivo. Attenzione. No, vabbè, ne ho detta giusto una per fare un nome grande, non ci sta nessun interesse. Quello guarda, devi dire 10 volte Radio Panorama. Perfetto. Come la lavagna. Scrive. Guarda, meno male che ci sono appunto realtà come la vostra che aiutano questo band, perché insomma... Non ti devo spiegare. Sì, sì, no, vabbè, è normale. Ma senti, parliamo un attimo delle canzoni come sono nate. Ora, non so chi di voi, ma immagino tu mi sei detto che sono nate da te la maggior parte. Adoro il 69, che benché il titolo sia abbastanza no, un gioco. Allora, diciamo... Il 69 stavo con la mia ragazza a Città del Vaticano. Stavo guardando i Vaticani. Non so perché siamo passati a pensare a altre cose. Non lo so. Beh, insomma, sono uno di quei pochi convinti che le canzoni già esistano, cioè sono e tu là. Li vai a captare nell'aria. No, io, chi ci sta, magari se andavi tu col giorno Vaticano la scrivi, stanno là, qualcuno le devi prendere. No, vabbè, qualcuno, ma io lo adoravo già da prima il 69. Franco. Anch'io. No, ma non lo metto in dubbio, però voglio dire, sono un po' di vecchio stampo per questo quello che concerne la composizione, insomma. La canzone già esiste, chi fa prima la prende. Senti, Adoro il 69 ovviamente, diciamolo, non è la posizione nota a tutti, no? if you know what I mean. No, guarda, la cosa carina che hanno scritto alcuni giornali riferito al brano, che era difficile fare un titolo così e poi non parlare assolutamente di sesso, perché esatto. Che non parla di sesso. Parla proprio del 1969, che ci sono state tantissime... Sì, tutte le controversie, tutto quello che è successo, che si può sintetizzare in 3 minuti, quello che si può dire, insomma. E soprattutto partite da Armstrong che va sulla Luna ai geni sulle strisce pedonali, cioè, quindi un contorno di... Ma se ci fai caso, anche il riff che sta sotto il ritornello è l'inno degli Stati Uniti, tutto cambiato d'accento, cioè abbiamo proprio ricreato quello che ci interessava, che poi è stato suonato da Jimi Hendrix proprio nel 69 a Woodstock. Sì. Quindi, cioè... Abbiamo fatto anche un video web. Che sì, sta... l'ho visto. Quindi vedetelo, okay. Soprattutto a chi ci ascolta. Adoro il 69 dei Rosso Dalmato su YouTube. Ma anche quello di Mina si fa di Chetamina. Un gran bel video che ha girato tanto. Sì, no, vabbè, quello andavo di più a un video originale che abbiamo fatto con la Elephant Production di Bologna. Sì. Ci abbiamo messo 3-4 giorni. Adoro il 69, insomma, è una cosa che abbiamo fatto a casa. Ah, proprio casalinga, siamo... così molto. Sì, insomma, ci sono dei problemi con i diritti d'immagine, abbiamo preso solo tra Kubrick, insomma, ci stanno un sacco di cosette, che è un video per il web, insomma. E adesso stiamo facendo il video di Onda Sinusoidale. Sì. E dobbiamo farlo uscire per ottobre, Ah, bene, allora lo attendiamo. Senti, ma siete in tour o, insomma... Stiamo facendo delle date, stiamo facendo i primi festival, diciamo che la maggior parte di date le stiamo concentrando per... dopo settembre-ottobre. Abbiamo fatto una grossa promozione nel web e ci siamo uniti con altri gruppi per aumentare proprio le visite su tutte le bacheche di tutti quanti, tutto gratuito ovviamente, e anzi è stato bellissimo conoscere via Skype ogni sera una band diversa, di generi completamente diversi, e ci siamo aiutati tra di noi, insomma, abbiamo creato una rete di condivisione. Ma una band indie rock che vi piace molto in Italia, chi sono? Guarda, che ti devo dire... Ho sempre ascoltato One Dimensional Man, Capovilla. In generale è un gruppo che stimo, sono persone proprio, sono belle persone. Sono stati ospiti anche ai nostri microfoni e devo dire che sono veramente molto simpatici, oltre le... No, ma ho avuto la fortuna di sentire un discorso a fine concerto proprio di una persona vera che parlava di quanto può essere bello di scoprire i fan a 40 anni, insomma, e non stava su una radio, insomma. E poi non lo so, siamo cresciuti anche ascoltando comunque Verdene, prima Fair Hour, ci sono un sacco di gruppi interessanti poi nel panorama indie italiano, Iola Urlo, Revolution Under Night, cioè non se ne esce, sono tantissime italiane belle, sono tantissime. Senti, brevemente, la prossima data, se ne avete già una fissata? La prossima data è il 25 agosto a Maenza, suoniamo in piazza Maenza, in provincia di Latina. Poi abbiamo tutta una serie di festival, però qua non ho come... E il 14 settembre suoniamo a Bologna, in piazza San Francesco. Progetto per un prossimo album? Sì, abbiamo già tantissimi brani, una ventina. Quelli che non vanno fatto incidere? No, no, no, poi ne sono usciti altri, quando poi stai incazzato escono sempre canzoni, sempre. Quindi... Ce l'aspettiamo, fra quanto uscirà, dai? Non lo so, per aprile vorremmo cominciare a registrare, però è tutto... è trovare una produzione che ti segue, come fanno insomma a Londra. Eh sì, eh sì, all'essere molto più facile. Va bene, allora noi ti auguriamo tantissima fortuna, ti ringraziamo per questa intervista e ci ascoltiamo subito ad Oro il 69. Grazie. Ciao. Frank, grazie a voi, ciao ciao. Sarebbe trovare un'idea davvero originale per un regalo. Ah, siamo in vena di acquisti. Eh già, le occasioni non mancano. Facciamo così, io ti do una dritta sul negozio che fa per te. E tu? E io ti faccio un regalino. Che ragazzo perspicace, ti adoro. Allora andiamo da Cose di Casa. Elettrodomestici, anche da incasso. TV Color, Hi-Fi, vasta gamma di aspirapolvere. Accessori per la casa, coltelleria professionale Sanelli e stupendi articoli da regalo. Inoltre, da Cose di Casa trovi esclusiva bigiotteria in argento. Ed insieme, un affascinante angolo dedicato agli articoli etnici per scoprire le particolari atmosfere dei paesi esotici. Cose di Casa, via Alcide De Gasperi a Lascari. Telefono 0921 911 441. E adesso anche a Cefalù in via Gioieni 8. Telefono 0921 92 30 92. Vieni e compra. Panorama.

E dopo la pubblicità, ovviamente, ci siamo nuovamente noi. Siete con L'Onda in Onda, infatti fino alle 20.30 vi terremo compagnia. Ma non possiamo non annunciare un ospite che ci viene a trovare da diverse puntate. Ma prima vorrei farvi una domanda: quanti di voi domani mattina diranno cosa cuciniamo? Che ci svegliamo e diciamo, ma cosa farà mia madre? Cosa farò io? Come faremo a tirare avanti per il pranzo? Bene, ve lo propone un artista veramente, insomma, di fama ormai mondiale, nazionale, internazionale, conosciuto veramente ovunque. Lui è un ex medico nutrizionista cacciato via dall'ordine perché, insomma, ha ucciso una persona non volendo con una ricetta dell'anduja calabrese molto piccante. Ha un soggetto malato di ipertensione. Avete capito tutti di chi stiamo parlando? Prendete carta e penna perché lui è Tony Scopelliti. Buonasera, intanto ti scordavo di dire che io vado in giro per il mondo a dare ricette per lavare l'onta, che poi è lecce sempre dell'onta. Mi piace sempre dire che e lava l'onta, però no, nel senso ormai il nostro pubblico lo sa che lei gira per l'Italia. Dov'era prima di venire qui su Radio Panorama? Canicattì. A Canicattì. Sì, caparrano tipo il mio, cioè tipo molto calabrese, mi piace. Ah, le piace questo nome? Sì, caparrano tipo noi. Ah, parlano come voi. Un poco grigentino. Senta, oggi che ricette ci dà? Oggi una cosa leggera perché hai un poco di mal di stomaco. Non so se poco fa ho sentito che c'era un poco di puzza. Sì, abbiamo sentito. Ero sì. Io oggi vi propongo un gatto che si sizza. Come? Gatto che si sizza. Cosa? Un gatto con salsiccia. Ma cos'è? Il gallo con la salsiccia? Un pollo con la salsiccia. Il pollo. No, il pollo chiamiamo gaggio e un gallo chiamiamo pollo. Ah, capisco. Purtroppo siamo calabrisi. Certo, testa certo. Rura, non ci potevamo fare niente. Senta, ma cosa serve per questa ricetta? Ovviamente serve almeno, se siete tre cristiani, tipo padre, madre, un figlio che non è inferiore di età a 80 anni. Ah, certo, il figlio inferiore. Quindi, cioè, i genitori minimo 130. 130, 140. Sì, ma tu Salemme e sua moglie. Quindi è una ricetta solo per pochi eletti. Per pochissimi eletti. No, eletti. Ah, eletti, scusa, sì. Ho capito eletti, perché poi in effetti ti stende sta ricetta. Ah, allora pensa eletti. Non mi sputi, signor Scopo. No, non volevo, non era mia intenzione, le chiedo scusa. Allora, come ingredienti ovviamente ci vanno 10 gaggi. 10, quindi 10 polli. Sì. Certo. No, mi chiami gratis. 3,33 polli a testa, periodico. Periodici, quindi certo. Per tanto tempo a mangiare sempre un terzo. Tagliare il pollo fino a che non diventa infinito. Esatto. Poi appena scindete l'atomo siete morti perché bravo, è finito. Bravo. Poi ci vanno almeno un chilo e mezzo di cotte che di maiale fresche o salate. Fresche o salate? Cioè o fresche o salate. Esatto. O su cose vecchie fanno schifo però sono salate. Oppure su freschi. Ma non sono salate. Quindi come faranno i nostri ascoltatori a scegliere cosa, quale cotiche di maiale? Ispirazione, metti che a mangiare casoggi nel savonno liquidare, pigliano chi di salate che non sono frischi. Ah. Se invece è una cosa pigente a cuorno buono, pigliano chi di frischi. Ho capito. Quindi una ricetta anche per, diciamo, togliere un po' di gente. Esatto, dalla faccia della terra. Sì. Poi ci vuole, non mi ricordo quando ho ammazzato. No. Poi ci vuole almeno uno struzzo. Uno struzzo? Sì. Ma è sicuro? Uno strutto. Ah, scusa, sì, attira giù Z. Ci vuole un bello. Allora, una bella chilata di strutto. Un chilo di strutto. Sì, che cioè, poi non fa male. Alla fine sei distrutto. Però 333 grammi di strutto. Piglia sapori. Sì. Piglia sì. Sapori, certo. Piglia sapori. Se, dopo lo strutto sei sempre distrutto. Certo. Allora, poi ci vogliono cipudre. Quante? Dai, che da ritropea, devo pigliare pure una camionata. Pure una un camionata, certo. Ma facciamo un van. Un van. Esatto. Poi ci vuole un 3 kg di farina. Certo. Un chilo di farina a persone. Esatto. Certo. 800 grammi di sale. Sì. Tanto pepe nero. Tanto nero. Se lo trovate rosso tincito, non ci fa niente. Ah, va bene, no, sì. L'importante è il colore. Certo. Poi improvvisate per qualche minuto. E dopodiché pigliate un sedano. Sì. Improvvisate in che senso? Nel senso che magari ci potete entrare altre cose. Insomma, potete anche mettere chissà c'è un bicchiere di uovo, di pisellini. Che duca ve ne esce? Ah, cioè avete un minuto di improvvisazione. Che duca potete entrare un minuto. È a tempo. È una ricetta a tempo. Capisco. Esatto. Quindi poi varia la ricetta. Sì, diciamo. Sì. Poi okay. Soprattutto se non la vedo, continuerà sempre di più a variare. Io non vedo veramente nulla. Allora, poi stavo dicendo, dopodiché ci vuole la salsiccia fresca. Sennò perché sì. Si chiama gaggio casasizza. E poi i pomarori. Quanti pomodori? Mi ricordo che alla fine ci metterà almeno 3 di pomarori in testa a un regista, poi lui capirà. Sì, allora, tagliate a pezzi i altri e la preparazione. Esatto. Pigliate carta e penna e scrivete. Carta e penna, mi raccomando. Tagliate a pezzi i pomodori cotti che si spotte tutto in una casseruola con lo strutto e mezza cipolla agitata. Fatto? Va bene. Cuocete fino a quando la cipolla non sarà dorata, quindi colate lo strutto con una cosa di strutto e un'altra casseruola, aggiungete a fuoco lento e zucchero di farina. Quindi è una ricetta anche importante perché è dorata. Ovviamente, rimestate, soprattutto fino a che la farina sia ben cotta. Certo. Ah, vedete perché diventa bella un colore, certo, bello marroncino. Avete capito? avete scritto? Ovviamente, a parte poi avrete preparato del brodo con le ali. Se non l'avrete preparato, ricominciate da capo e buttate tutto. Con Fausto? Okay. Sì. Vabbè, vado avanti. No, infatti non ne vedremo all'isciusa. La testa e i piedi dello gaggio e lo verserete sulla carne fino a comichial. La testa e i piedi del gallo? E lo versate sulla carne fino a comichial. Con la testa e i piedi? Sì. È il brodo. La testa del brodo e i piedi del pollo. Ah, la testa del brodo addirittura. Capisco. Poi cosa si aggiunge? Signor Scopelliti, c'erano altri ingredienti. Aiutus, sì. Aggiungete sale, pipe, aroma, rosmarino, che volete, salsa di pomodoro, il sedano tagliato a pezzi e uno sano. Certo. Caso sì. Piglia soggiro. Certo. Coprite la casseruola e lasciate bollire per almeno 8 ore. 8 ore. Sì. Sì. Quindi sgrassate, pulite. Perché le immagino pentole. Immagino che dopo 8 ore, certo, il pollo sia un po'... No, la pentola. Ah, la pentola, certo. Non mi interessa il pollo. Aggiungete pezzi di salsiccia fresca e lasciate cuotere per altre 10 ore. Ah, capisco. Va bene, quindi è comodo. Io vi saluto. No, io volevo un'altra ricetta veloce. Ah, fegato fritto. Un fegato fritto. O i frascioli allo spito. No, guardi, io. Vabbè, un fegato fritto. Però veloce. Un fegato di maiale alla rete. Pigliate un fegato di una rete di maiale. Fatto? Bene. Poi pigliate le foglie d'alloro, ve le mettete attorno alla testa e fate una foto come se foste Cesare. Poi pigliate l'olio d'oliva, strutto, distrutto. Tanto è la foto. Sale. Se no non viene. Esatto, ci vuole la... Perché poi ve la mettete stampata tipo polaroid perché viene ispirazione. Riducete l'uffigato a pezzi non molto piccolini, poggiate su ogno di esso una foglia d'alloro, avvolgete in rete, fate un'altra foto, friggete in olio d'oliva e pochissimo strutto e salate prima di servire. Ci andate vestite di Cesare, è successo, è assicurato. Vi saluto. Grazie a Tony Scopelliti. E noi adesso ci ascoltiamo un pezzo di Jennifer Lopez con Pitbull, Dance e Kane. Dance, yes, move, next, dance, yes, move, next. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, madre, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out, let's get this. Dale. To the death, yes. Is he really worldwide? Yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens. Checkmate. What you think? It's a rumor. I'm really out of this world. Moon, Luna. Make women comfortable. Call me Bloomer. Can't even show love 'cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah. Have a blessed day. So ahead of myself. Every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of olive. It's your open sesame. This would be a perfect love. We need together. siamo tornati in diretta dagli studi di Radio Centrale, di Radio Panorama. Ma oggi cosa avete? Che cosa avete oggi? Che cosa è successo? Io volevo fare un saluto particolare, non so, ho detto la radio sbagliata. Tu hai fatto partire un fischio. Vabbè, comunque. Che cosa avete? Non lo so, Andrea, tutto a posto per le orecchie? No. Andrea ha forato e non si parla della gomma. Comunque saluto la mia ragazza e tanta altra gente che ci sta ascoltando dai computer, riuniti nelle case un po' come per la finale dei mondiali. Tutti sì, si riuniscono. Cioè, praticamente tra una pubblicità e l'altra. La tua ragazza via etere. Non via etere, sì, io invece via etero, quindi io ascolto sempre via etero. Va bene, Andrea, tu vuoi salutare tua madre? No, io non la saluto. Io chiedo, che ne so. Va bene, diamo qualche appuntamento sempre preso dal buon Balarm, poi te ne dico uno io. Del sabato sera. Quanti di voi non sanno cosa fare il sabato sera? Quindi ve lo diciamo noi. C'è, io lo so che lo leggerò e boom, sì, lo so. Stai leggendo questo? Sì, no, purtroppo. No, lo sta per leggere. Tanto me lo metteranno davanti, quindi meglio lo leggo prima io. Lo sta per leggere. Summertime Blues Festival, Glenda's Band, Mr. Conrad e K. Joe Delta. Capra. Lo vedi che sbagli. Ma sbagli per forza. Capra. Sgarbi. Ecco la Glenda's Band sul palco, cover dei classici Rhythm and Blues, seguita da Mr. Conrad e K. Joe. Insolito, due chitarre. Cioè, capito? Però... lui per festeggiare che la seconda volta ha detto correttamente Capra Joe, ha sbagliato tutto il resto, che era in italiano. Insolito due di chitarra e batteria, che riprende le sonorità dei Black Keys, due di alternative rock statunitense. Chiude una serata dei Delta Moon, la loro formazione si caratterizza per due chitarre slide. Ingresso gratuito, Piazza Ciullo, Alcamo, 21:15. Perché diamo notizie, cioè, di appuntamenti ad Alcamo? Perché ad Alcamo tu non ci vai. Ma tu vai ad Alcamo di sabato sera? Sì, certo, di sabato sera se hai non hai niente da fare vai ad Alcamo. E poi invece una cosa a Palermo, This Island Revenge sul palco del Watership Down salgono gli Strength Approach, storico gruppo. Ma dove la S? Si chiama Strength. Ma che ne so, ma me li mettono davanti. Storico gruppo proveniente da Roma e i Wales Island, ore 22, ingresso gratuito. Ovviamente al Watership Down Veg Café di Palermo. Invece nessuno mi apre l'evento davanti e proverò ad andare a memoria il 6 agosto alle terrazze dei Candelai. È il tuo compleanno, e allora andiamo tutti alle terrazze dei Candelai, che si trovano a Sferracavallo, se non erro, zona. Esatto. E c'è la serata che si chiama La Notte delle Sirene, organizzata dal gruppo del Pop Shock. Anzi, saluto Marco Agnello, se è all'ascolto. Invece a Gela abbiamo Tiziano Ferro, la storia comunale Vincenzo Presti, ore 21:30, 63:25 la tribuna, 34:50. La TV per vederlo a casa. La TV, cioè, perché il decoder costa un po'. C'è il decoder integrato. 34,50 posto unico invece. Che 25? Che prezzo è? 63,25? Non lo so, cioè, non lo so. Che hanno 75 centesimi di resto. E poi io spero sempre che almeno chi gli monta i palchi sia pagato un po' di più. Sì, esatto. Sì. Soprattutto che non cada il palco, visto esatto, i rischi visto che ci sono. Chi è morto sotto il palco di per il concerto sia di Tiziano Ferro, ma che Laura Pausini. Esatto. E Giovanotti. Oppure Tiziano Ferro, no, sono Tiziano solo Ferro, Pausini, no, solo Pausini e Giovanotti. Ha avuto come risarcimento dall'INAIL il 1936,80 euro. Ah, che se erano 1,27 diventa la conversione, sì, euro lira. Esatto. Perfetto. Guarda, veramente uno scandalo, sì. Comunque scusa, Tiziano Ferro suona a Gela perché fa caldo? Esatto, perché c'è troppo caldo e quindi lui è andato a Gela. Volevo poi sapere. Invece abbiamo un evento, diciamo, vicino a noi, proprio a Termini Imerese, a Lungomare Cristoforo Colombo, al Sunset, ore 22:30, 10 euro con consumazione. Imera Sound presenta i Bunda Bash from Salento, DJ set del Bunda Bash accompagnati dai Resident di Mera e dagli N Massive. Ovviamente saranno i nostri amici Grande Mimmo e Tolloman presenti, immagino, sì, a fare la loro da apripista, diciamo. Esatto, sì. Fare da 10 euro con consumazione, l'ingresso alle 22:30. E per finire, se siete persone molto raffinate, no, chiamate la danza classica, e volete anche rifarvi gli occhi se siete donne o gay, potete andare a vedere lo spettacolo di Roberto Bolle in Trittico 900 al Castello a Mare di Palermo, nel complesso monumentale. I prezzi dei biglietti non li diciamo perché ci sono i deboli di cuore all'ascolto ed è meglio non dare certi prezzi. Io vi dico soltanto quello dei distinti, non si sa, cioè sono i posti distinti, sono 45 euro. Io avevo ottimo alla scuola, però media. Attenzione, i distinti è la classe più bassa dei, sì, posti, esatto, quindi 45 euro per andiamo essere, alla poltrona che sale, la poltronissima sale ancora, e poi c'è la platea che è un prezzo mai visto prima. Ora 21:30, però Castello a Mare a Palermo, esatto. Sì, ricordatevi di portarvi una pentola a 100 gradi. Va bene, allora ci ascoltiamo il prossimo pezzo e poi abbiamo un'intervista a Luca dei Management del Dolore Post-Operatorio. Le regine della scena con le mani su, tutti i capi della scena con le mani su, e chi me

Ma guarda, non lo so. Qual era lo stile? Impressionisti? Bravo. Impressionanti? Sì, erano due pittori impressionanti. Cielo. Ma dico, tra l'altro uno era cieco. Uno dei due era cieco. No, quello era Chekhov che scriveva romanzi. Uno dei due, tra Monet e Manet, era cieco. Vero? Sì, sì. Cazzo. Non lo so, possiamo anche chiederlo a Luca, se ne sa. Qualcuno è degli ignoranti. Chiediamo a Luca, abbiamo in onda, abbiamo il piacere di presentarvi in onda adesso qui a L'Onda in Onda, Luca De, il management del dolore post-operatorio. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Senti Luca, sai dirci se uno dei due, Monet e Manet, era cieco? Assolutamente no. Ecco, viva Luca, viva Luca. Luca, uno di noi, Luca uno di noi. Allora, ciao Luca, domanda di rito: come stai oggi 26 luglio 2012? Dove sei? C'è caldo, c'è freddo, stai bene? In questo preciso momento sto malissimo perché... Pure tu? Ma perché tutti oggi state male? Al centro commerciale, capito? Ah, allora condoglianze, condoglianze. Per i saldi, un casino di gente inutile. E per i saldi sono uscito e ho buttato un centesimo nella fontana del centro commerciale, sperando, come ho espresso come desiderio, quello di non tornare mai più. È bellissimo il desiderio. Che crolli, che faccia un terremoto solo sotto il centro commerciale, possibilmente stanotte, quando vuoto. Hai ragione. Crolli tutto. Ma chi ti ci ha portato? La tua ragazza? Non so. Tutte varie persone che non stiamo a dire, perché varie persone. Esprimere il mio odio per loro e non mi va pubblicamente proprio. Senti, il management del dolore post-operatorio è la gestione dell'inconveniente di essere nati. Luca, spiegaci questa frase. Sì, è chiaro, la gestione dell'inconveniente di essere nati, per l'appunto la gestione di una giornata come questa, dell'inconveniente di essere nati per pomeriggio al centro commerciale. Ad esempio. Me, qual è la soluzione? O mi bevo una bottiglia di whisky, potrebbe essere una prova di post-operatore, se per risolvere queste certo. problematiche. O prendo una ragazza qualsiasi e ci faccio all'amore, o non lo so, ci sono tanti. Ci sono vari metodi, diciamo, per salvarsi. Guarda, Luca... magari c'è l'amore, o magari c'è la battaglia, ogni giorno quello che qualcuno ha, di cui ha bisogno per essere felice, quello è il management del dolore post-operatore. Senti, io sono per il whisky più fare l'amore, soprattutto però deve essere un whisky invecchiato 18 anni delle Highland scozzese. Sì, però attenzione, è solo lui di queste idee. Aspetta, ma Andrea, il ragazzo che ti ha appena detto che preferirebbe il whisky, è anche quello che su Facebook si chiama il Bonobo come soprannome, le scimmie. Come Bonobo, il Bonobo, come le famose scimmie che preferiscono fare l'amore invece che mangiare o fare altro. Oh, vedi, io sono veramente d'accordo. Ecco, grande, allora abbiamo Luca il Bonobo 2. Perché devo fare anche la dieta, quindi magari mi faccio l'amore, non mangio. Fantastico, sono d'accordo anch'io. Senti Luca, vi siete formati come gruppo dopo un incidente automobilistico, che in realtà però, da quel che so, correggimi se sbaglio, in realtà l'hai avuto solo tu, l'hai subito solo tu questo incidente. Io do su questo delle molteplici versioni. Oggi scegline una. Come il Joker oggi di Batman. Eravamo tutti insieme, ed eravamo ubriachi, perché in fondo quando si soffre, sempre tutti insieme. È felice a ricordare questo momento, assolutamente. No, niente, dai, poi per l'appunto che devo dire, qua tanto tutti soffriamo il dolore post-operatorio, che sia un dolore fisico da post-incidente o che sia un dolore psicologico, come questa operazione che hanno attuato su di noi, questa amputazione dei nostri sentimenti, ma che te lo dico a fare, è un casino questa vita, io non so più che fare. Si non sente, so che più. Sei veramente reduce da un centro commerciale che ti ha devastato l'anima. Sì, sì, si capisce. Non capisco più niente quando entro davanti a Calvin Klein e Guess, non so più che dire veramente. Allora, in sottofondo, non so se tu riesci a sentirla, mentre parli con noi c'è un pezzo, Auf, il vostro secondo lavoro, sì, proprio il singolo, che ha attirato attenzioni di testate nazionali, addirittura La Repubblica, Il Corriere, e abbiamo saputo che avete fan come Jovanotti, cioè io so che non sono solo, anche quando sono solo, cioè voglio ben dire. Il grande Jovanotti, anche Caparezza ha parlato bene di noi, hanno twittato come usano fare loro questi commenti positivi. E penso faccia un gran piacere, piacere. Sicuramente, soprattutto perché magari le nostre canzoni sono arrivate magari all'orecchio anche di persone che non fanno propriamente parte del nostro panorama. Esatto, cioè. esatto, è bello comunque, sì. Senti una cosa. A proposito dei brani dell'album, Nei Palazzi ha subito una vera e propria decostruzione rispetto alla versione che avevate lanciato mesi prima come singolo in rete, con il primo video ufficiale. Come mai questa scelta? Praticamente perché abbiamo ritenuto che diciamo la canzone che precedente, il singolo precedente, fosse già abbastanza buono, no? Nel senso che ci piaceva. È solo che la volevamo riproporre come uno dei tanti cavalli di battaglia che abbiamo, anche nel disco. E quindi, insomma, ci siamo detti, diciamo abbiamo fatto una sorta di remix, no? Però ci siamo dimenticati di scriverlo. Ci siamo detti, o la rifacciamo da capo, dandogli un'altra impronta, altrimenti non possiamo né mettere quella vecchia né rifarla uguale, cioè non potevamo, certo, andare in un altro studio e riproporla in maniera identica. Allora ci siamo detti, per l'appunto, riarrangiamola e diamogli un altro aspetto. Ho capito. Senti, io... un po' più film horror. Ah, ecco, un po' più film horror. Una curiosità, voi dite che è assolutamente vietato pogare. Cioè, anche questa la voglio sapere. Noi siamo contro la violenza. No, beh, riteniamo che, vabbè, giustamente... Il pogo comunque è un'operazione, è un'esorcizzazione, è anche un po' un modo per, come dire, non mi viene la parola, per sfogarsi. Sì, tocchiamoci tutti, non so, entriamo tutti in contatto, viva Dio, così. Ecco, in fondo, diciamo, a livello, diciamo così, mettiamola su un parallelismo allegorico, è un po' quello che vogliono loro. Da noi si dice i potenti, diciamo. Da noi si dice che quando i lupi si mangiano tra di loro, il padrone è felice più delle pecore, capito? Certo. Certo. E allora è quello che vogliono loro, vogliono che noi ci sfoghiamo deboli contro deboli. In realtà la nostra visione è così, un po' allegorica del concerto, un po' rituale. E ci piace pensare che si possa ballare, abbracciarsi e fare un sacco di casino e diciamo sprecare la propria energia, che poi l'energia è anche un fattore di condivisione. Bisogna condividere la propria energia in altro modo, sarebbe molto più carino, anche molto più folle. Non sarebbe male. Stare lì a darsi le testate. E poi ogni volta che vado a vedere i concerti finisce a botte perché qualcuno che poga rompe i coglioni. Esatto, qualcuno non voleva pogare e finisce l'altro di sopra. Alla fine sempre a botte. Io le persone che fanno a botte proprio non le sopporto. Ritengo che sia la cosa più stupida. Cioè proprio, ma... non ne voglio nemmeno parlare. Grande Luca. È un centro commerciale. È meglio centro commerciale da distruggere. Ma come si chiama il centro commerciale? No, ma no, non si può dire. Non si può dire. Non si può dire. Non si può dire. Senti, ma Amore Borghese è uno dei brani con cui voi avete collaborato, oltre che, insomma, abbiamo parlato dei vostri fan come Caparezza e Giovanotti, sì. Ma avete collaborato con Emilia 77. Sì, con Emiliano Audisio, uno dei due cantanti. Sì, vabbè, nel senso che... Sì, siamo stati ovviamente molto contenti, anche il suo lavoro ci è piaciuto molto perché secondo me ha deciso di lavorare molto bene, nel senso che lui si è inserito negli spazi e quelle frasi che ha cantato se le è scritte da solo, insomma se le è cantate e se le è suonate. E diciamo che questa operazione a me mi è piaciuta un bel po' perché ha fatto rimanere la canzone molto, molto nostra e in più il suo lavoro è molto presente, molto vivo e anche molto personale, no? Di solito tante volte... le collaborazioni fanno piccole cose, tipo una seconda chitarra oppure una seconda voce. Mi sembra anche un po' banale che un cantante come Emiliano faccia le seconde voci del mio ritornello. Cioè, invece il suo lavoro di inserirsi negli spazi mi è piaciuto molto, insomma. Senti, ma avete fatto un concerto di recente in Sicilia? Sì. Com'è andato? Super bene, ne abbiamo fatti due, uno a Messina, uno a Catania. Uno meglio dell'altro, la Sicilia è bellissima, le persone siciliane... A Palermo non siete venuti, però? A Palermo no. Allora la prossima volta l'aspettiamo a Palermo, cioè dovete andare anche nel versante occidentale. Dai. Avete fatto quell'orientale e mo passate a occidente, dai. Sì, mi ci piacerebbe, però per la Sicilia è una cosa. Poi abbiamo suonato lì vicino allo stretto, davanti Scilla, Carichi. Bello, bellissimo. Roba, proprio è fantastico, tutti. Senti, i due locali erano meravigliosi. Siete in tour quindi in questo momento? Allora, questa settimana fortunatamente ci riposiamo un po', perché abbiamo fatto per l'appunto la scorsa settimana tra Roma e Sicilia, abbiamo fatto 10.000 chilometri. E questa settimana ci riposiamo un po' perché da agosto abbiamo un altro tour de force che poi ci porterà anche l'8 agosto a Budapest, allo Ziget. Ah, bellissimo, il festival è fantastico, fantastico. Sì, siamo lì con i cani e con tanti altri gruppi, credo anche il Teatro degli Orrori, insomma, una bella cosa. Non vediamo l'ora. Il vostro sound somiglia un pochettino al cantato di Capovilla. Ma se posso di Claudio Villa, io insomma mi ispiro al canto. Sì, no, no, sì, no, non no, di Claudio Villa, di Capovilla. Sì, no, come Claudio Villa, Granada. Sì, è lui. Sì, no, Claudio Villa è un artista che mi piace molto, devo dire la verità. Vabbè, sei un grande Luca, sei simpaticissimo. Non somiglia per niente. Senti, ma i progetti per il futuro, cosa vuoi fare? Prossimo album? No, noi ce l'abbiamo già praticamente pronto, e poi però sai cos'è, a livello anche discografico, poi bisogna ragionare bene su quando farlo uscire. Dai, dici il nome, come dice Pelù. Si può dire, sono tutto pronto. Sai perché? Perché poi quando tu fai, diciamo, i primi lavori, perché fondamentalmente questo è il nostro primo lavoro ufficiale, allora non sapevamo cosa fare bene, la copertina, il titolo delle canzoni, il titolo dell'album. In realtà adesso, che non ancora esce, il prossimo, io ho già tutto pronto, tutto in mente, tutto fatto. Ci mettiamo un attimo proprio. Senti, dobbiamo YouTube vi ha censurato il video... Il video, sì, il video di video porno bisogno porno. No, il video porno, video porno di porno bisogno, perché insomma avete montato pezzi di un film di Schicchi, però sì, l'avete messo da un'altra parte. Ma guarda, era in realtà un documentario di un grande regista di Lanciano, della nostra città, che vive a Roma, che si chiama Carmine Amoroso. Esatto. E ci ha prestato appunto questo girato del Mifex di Milano, cioè era un documentario autoriale su Schicchi. E quindi ci ha fatto questo regalo, abbiamo fatto questo video. In realtà non era volgare per niente, ma gli italiani... Sì, l'ho visto, gira su Vimeo, andatelo a guardare. Sì, c'è anche un pochino su YouTube nascosto da qualche parte. E solo che insomma ce l'hanno censurato e quindi adesso lo metteremo sui video porno, sui siti porno al momento chiuso. Va bene Luca, ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni di Radio Panorama, sei stato simpaticissimo. Intanto per il futuro prossimo Venturo ti auguriamo di uscire dal centro commerciale vivo, così ci risentiremo per il prossimo album. E allora ti salutiamo, ti ringraziamo. Ti facciamo un in bocca al lupo e ci ascoltiamo proprio Porno Bisogno. Ciao Luca. Ciao, grazie. Positivo, in fondo. Bene, torniamo in diretta, la regia mi avvertono che abbiamo un ospite veramente importante oggi con noi. Lui ogni tanto ci chiama, ci raggiunge qui i nostri microfoni per via telefonica. Il suo telefono molto potente sembra addirittura che sia veramente proprio qui, ma sappiamo invece che è da un'altra parte. Insomma, tutti con le mani sul cuore, perché lui è il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. No. No. Leva. No. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera, presidente. Io oggi voglio un altro inno. Che inno vuole, presidente? God save the Queen. God save the... Ah, l'inno inglese, presidente. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, lei sta pa, cantando pa, God save the Queen pa, sopra pa, l'inno di Mameli. Presidente, pa, presidente, pa, presidente. Dio salve la regina. E viva Elisabetta. Sì, grazie presidente. Prego. Ma perché vuole l'inno inglese? Perché mi trovo sul London Eye. Lei è sul London Eye, a Londra, in questo momento, nella giro... ruota panoramica. Esatto. Invece di girarmi solo i palli, allora gira pure a ruota. Addirittura, io sono presidente. Ma le girano le palle ancora per quel discorso, sì, di Mancino, sì, intercettazioni. Esatto, no? Avete spedito tra l'altro in Groia, in Guatemala. Sì, no? Sì, sì, sì, sì. Che ne pensa? Cioè, un commento dal London Eye. Ma... ma lei non gliene frega niente. No, guarda, questa... al momento sto a Londra e voglio godermi le Olimpiadi, i giochi olimpici. Addirittura, ah certo, perché domani si apriranno i giochi domani, olimpici, esatto. Sì, e io sarò, sì, allo stadio e tiro e farò pure un colpo di pistola che detengo senza porto d'armi. Come? Ma presidente, ma lo sta dicendo in radio. Ma è per festeggiare l'inizio, lei non lo dica a nessuno, tanto ci avrete due ascoltatori. Ma non è vero. Ma saranno quattro, tua no, mamma, la mamma dell'altro cretino. Ma no, non è vero. La sorella di Bruma. Presidente, come fa a ma Bruma tenga la sorella a te? No. No, al fratello? No. Sei figlio unico? Yeah. Ah, ho capito, yeah. Presidente, ah, sei già adeguato. Sei adeguato lei a Londra. Is adequating. No, regista, come fa a parlare così con il nostro presidente della Repubblica? Ma è sul London Eye, se non puoi parlare in italiano. Ah, già, ha ragione. Senta, presidente, io no, volevo chiarire un attimo questa cosa. Ma lei, quindi, aspetterà l'arrivo del tedoforo? E qui. Il tedoforo, no? Quello ah, che Achille che ha portato la torcia. La torcia olimpica. Sì, sì, sì. No. Il tedoforo. Ho pensato pure di fare uno scherzo. Al vediamo tedoforo. Se, vediamo se è apprezzato. Ma le piace il nome tedoforo? Da morire. Allora, Pio, mia moglie Clio. Che viene con lei a Londra. Ovvio, è già come ah, qua. Ah, è già lì accanto. No, no, guardi, non mi infatti è timida, meglio così. La prendo, la giro al contrario, così sì, ne esce a benzina. Ah, certo, perché va a benzina. E la metto in un secchio e la butto in faccia al teodoforo quando arriva. Così, no, ma perché? Così la fiamma... No, ma la fiamma non deve mai spegnersi e non deve uccidere nessuno. Io sono contro il razzismo e voglio che il teodoforo, se è bianco, diventa nero. No, ma e se è nero? Muore. Ma come? Non è contro il razzismo, lei sta facendo... No. Ma se faccio parlare, decido io. Presidente, le sue dichiarazioni sono poi peggio di quelle di quando ha mandato in groia. Ma senta, parliamo proprio di ingroia. Perché lei... Allora, a parte che lei, io ho scoperto lei che... si è arrabbiato, no? Sì. Che l'hanno intercettato, interpretato con Mancino. Sì, magari sì, stava dando la ricetta, no? Sì. Di qualcosa, di scopellino. Sì, sì, esatto. Ma perché si è arrabbiato così tanto e l'hanno intercettata? Allora, perché io intanto non parlavo di ingroia. No, no, non so che non parlavo di ingroia, però sì, sull'indagine sulla trattativa Stato-mafia, no? Lei parlava con... Non mi hanno capito. L'ha spiegato, dice che lei aveva perso il borsellino. Ho perso il borsellino, non Paolo Borsellino. Lo capiamo, però dico, perché si è arrabbiato? Basta dirlo. C'era tutto il non mi sando. Ma basta dirlo. Mi secca. Ma perché devo dare questa soddisfazione agendo come Di Pietro? Ma chi è Di Pietro? A proposito, oggi Di Pietro ha detto che si allera con Sel, quindi con Vendola, che tra l'altro è anche rinviato a giudizio, Vendola. Sì, presidente. Non fa niente lei per Vendola. Mandato in groia in Guatemala, mandiamo qualcuno perché magari... Ma io entro, non ho mandato in groia in Guatemala. Io ho detto fanno tanti ingoi in Guatemala, che è un'altra cosa. Ah, il CSM ha detto vabbè, andiamo all'ONU in realtà. Vabbè, sì, sì, ok. Sì. Senta, presidente, ma si allerà insomma Di Pietro con Sel contro... Ma Sel chi è? Sori Selli? No, no, Sel, il partito di... Sinistra e Libertà. Sì, esatto. Sel è quello di Dragon Ball. Vabbè, lasci stare, presidente, lei non conosce questi canzoni. Ma l'ha detto veramente? Perché lei conosce Dragon Ball, presidente? Da piccolo. Da piccolo, ma come da piccolo? Quando ero piccolo io mancherà nato Kid che lo disegnavo, però già immaginavo. Immagino. Sel, Majin Buu. Presidente, Freezer. Presidente, lei è a Londra già, sul c'era anche Frigorifer, che era quello più scarso. Sì, di presidente, andiamo avanti. Volevo dire, la situazione politica alle prossime elezioni si presenterà veramente complessa. Ma io no? sono a Londra, perché mi deve scassare? Perché lei, Presidente della Repubblica, io volevo farle questa domanda. Sì. Ci sarà l'IDV con Sel, Grillo, si è previsto il ritorno di Berlusconi, Casini che magari si allea con Fini. Insomma, questo allora, spread, con questa situazione politica, scenderà o no? A me non me lo fotto niente. No, comunque... presidente, ma lei come fa? Dico... Perché? No, per inciso, comunque volevo dare uno scoop. Uno scoop io economico. Da abbasso lo spread, perché mi candido io a Presidente del Consiglio. Ma lei è Presidente della Repubblica? Mi dimetto. Ma come si dimette? Ma lo sai che se si dimette Schifani diventa Presidente della Repubblica?

verrà per presentare un libro per raccogliere fondi sul terremoto in Emilia. Abbiamo stretto una tregua con quel fetecchione che sta sopra di noi, tutto sulle nuvolette. Mi fai impazzire. Cosa dici, terremoto? Io mi sto mettendo paura. Lei è un regista di merda e deve solo tacere ed eseguire i nostri ordini. La manderemo nel girone più bello, quello degli inculabili. Inculabili, pensa. Ah, ecco. Va bene, allora diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Sì, diamo appuntamento mercoledì prossimo. Ci sarà anche Dio, ci sarà il nostro capo Belze e ci rivedremo all'inferno. Saluti da Alessandro, detto il Brum, da Belze e da Bo.